Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 3 maggio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori tra la città e il carcere e bentornati a Liberi Dentro ed Uradio, in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Siamo su tre canali diversi per esservi sempre più vicini. Buongiorno anche alla mia collega Antonella Cortese, buongiorno. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. Oggi siamo solo io e te, ma abbiamo tante cose da dire, infatti io parto subito con una notizia, facendo un po' il redattore sociale, una notizia che riguarda Milano, dove i ragazzi del B, chiamati i B-Lever, hanno incontrato i detenuti di Opera. Leggo dal Corriere della Sera, a firma di Sofia Segre Reinach, perché è avvenuto questo incontro veramente straordinario tra i ragazzi affetti da patologie gravi che realizzano un quotidiano che si chiama Il Bullone, e si sono confrontati questi ragazzi con i detenuti del carcere Opera, il carcere milanese di Opera per l'appunto. E dopo il Covid la loro certezza è stata: insieme, dialogando, possiamo imparare qualcosa. Perché è un incontro questo che era già avvenuto, non è la prima volta, era già successo due volte, prima del lockdown si erano potuti incontrare in presenza, e lo scorso 10 aprile è stata avvertita di nuovo l'esigenza di incontrarsi, e incontrarsi quindi in modo un po' differente, rappresentano due comunità un po' diverse, ma non del tutto dissimili, insomma. Sì, infatti mi sto chiedendo come è avvenuto questo incontro, visto che hanno diciamo esperienze e provengono da realtà diverse. Beh, naturalmente è stato un incontro in remoto, come si dice adesso, facendo uso di tutte le tecnologie che ci permettono di lavorare in distanza. Però è stato un incontro che ha coinvolto 30-40 persone con due piattaforme differenti connesse. La tecnologia quindi ha aiutato tutti a dimenticare in qualche modo la sofferenza che si aggiunge ad altra sofferenza che ci ha colpito più di un anno. Diciamo che questo incontro ha dato speranza a entrambe le comunità che si sono incontrate, e infatti questo dibattito si è aperto proprio sulla condivisione della parola speranza, che in carcere è forse solo una parola, ha ammesso un detenuto, ma noi, parlando a nome di tutti, non la perdiamo mai. E queste sono le parole di Giuseppe, uno dei detenuti, che ha parlato di bolla, cioè del concetto di bolla, di questa similitudine, bolla tra le celle, ma non solo tra le celle, anche negli ospedali, anche nelle nostre case. Questa pandemia ha creato tutti intorno a noi una sorta di bolla, dove ci sentiamo in qualche modo distanziati socialmente. E quindi una sorta di presenza di prigioni diverse, ha detto una ragazza dell'istituto oncologico, questa ragazza stanca di aspettare, in poche parole, che tutto questo finisca per potersi reincontrare in modo normale, ecco. Sì, è vero, stiamo vivendo un momento veramente pazzesco in cui paradossalmente ci sentiamo però tutti un po' più vicini. E infatti, proprio a tal proposito, ti chiederei se secondo te ci sono dei pensieri positivi che sono venute fuori da questo incontro, perché sicuramente ce ne saranno. Ma sempre tornando al concetto della bolla, mi colpiscono le parole di Mattia, che ha detto: la bolla è un modo come un altro per riscoprire se stessi, capiti gli errori che ci hanno portato qua dentro. Naturalmente Mattia è un detenuto e che ha voluto, come dire, sottolineare il fatto che se anche si rimane racchiusi in una bolla, questo è un modo per approfondire delle domande su se stessi. E infatti a lui ha risposto una ragazza dicendogli: quanto coraggio che avete, mi piace parlare con voi, si impara sempre. E allora ha rilanciato Alex, un altro detenuto: siamo noi qui che impariamo da voi, stiamo bene quando ci confrontiamo. E poi un'altra cosa importante è questa, che mai nessuno ha chiesto la ragione del reato, come mai nessuno dall'altra parte ha chiesto qual è la tua malattia. E quindi anche un po' questa somiglianza, abbiamo detto, no? Da comunità diverse, ma alla fine allacciate da un qualcosa, un vissuto in comune, un vissuto speciale in comune. E quindi alla fine anche una ragazza del Believer è andata sulla letteratura, su Kierkegaard, e definendo la speranza la passione del possibile. Quindi un incontro bellissimo. Meraviglioso, davvero. Cosa ne dici? Lanciamo un brano musicale? Certo, assolutamente. Di che cosa ci fai sentire oggi? Questa è la settimana dedicata a Janis Joplin, un'altra cantautrice statunitense che ha fatto veramente la storia della musica anche lei negli anni 60 e 70. Purtroppo è morta giovanissima per overdose all'età di 27 anni e anche lei ha toccato il carcere in qualche modo durante un concerto perché una guardia gli aveva chiesto di tenere seduto il pubblico e lei rispose male con una parolaccia che non possiamo dire in trasmissione e quindi toccò il carcere per una notte soltanto, andò in prigione. E io di lei voglio lanciare e farvi ascoltare Bye Bye Baby. Rieccoci dopo la pausa musicale, bentornati su Liberi Dentro. Antonella, con la nostra finestra sul mondo, siamo in Egitto oggi, vicino a Luxor, vero? Sì, siamo proprio in Egitto, vicino al Luxor, ma torniamo a 3.000 anni fa. Facciamo un percorso a ritroso e parliamo di una scoperta favolosa. E grazie a una missione dell'egittologo Zahi Hawass, che ha ritrovato una città sommersa nella sabbia del deserto. Faccio una piccola precisazione. I ritrovamenti in quest'area geografica di solito sono molto ben conservati grazie al fatto che rimangono veramente sotto la sabbia e intatti praticamente perché è uno stato di conservazione molto, diciamo, produttivo, mettiamola così. Non succede sempre, non succede in tutti i posti del mondo, purtroppo. Comunque, questa città risale al regno di Amenofi III o nella lettura greca Amenhotep. E fu abitata da altri due faraoni, non soltanto da lui, il famoso, ormai lo conoscono tutti, Tutankhamon e Ai, il successore, che non si sa tra l'altro se fosse di stirpe reale o no, comunque insomma ci sono varie ipotesi. Mi sembra che sia una scoperta davvero importante, no? Per l'archeologia moderna, anche se hai parlato di 3.000 anni fa. Eh no, no, infatti è una scoperta tra l'altro inseguita per tanti anni. Secondo infatti una professoressa dell'Egyptian Art and Archaeology della Johns Hopkins University, che è una università molto importante da questo punto di vista, siamo davanti a una scoperta veramente epocale. La seconda più importante dopo il ritrovamento della tomba di Tutankhamon di quasi un secolo fa ormai. E, tra l'altro sono stati ritrovati gioielli, vasi, amuleti, oggetti di uso comune, quotidiano, che ci danno proprio, diciamo, ci rimandano a quel periodo, riusciamo a capire come effettivamente vivessero. Tra l'altro, questa squadra di archeologi ha cominciato gli scavi nel 2020. E il posto è a 500 km dal Cairo, vicino Luxor, come vi ho detto. E vi dicevo che hanno trovato vasellame, un po' di tutto, ma addirittura i resti di forni, evidentemente di qualche, diciamo, bakery, qualche posto dove si panificava. Il lavoro è durato 7 mesi e sono stati trovati anche altri resti importanti. In realtà. Ma ti chiedo, Amenofi III, che sono figure ormai che saltano fuori dai nostri sussidiari di storia, è stato davvero un faraone importante? Eh beh, sì, Amenofi III è stato un faraone importante che tra l'altro ha regnato per 4 decadi, cioè 40 anni, che non era una cosa proprio facilissima a quei tempi. Pensate sempre alla mortalità, si moriva abbastanza giovani. E quindi ereditò questo grande impero che andava dall'Eufrate, nell'attuale Iraq e Siria, al Sudan, e morì intorno al 1354, prima di Cristo, ovviamente. Come dice la storia, il suo regno fu opulento, era magnifico, grandioso. Aveva infatti fatto costruire il famoso colosso di Memnon, cioè due grandi statue molto alte vicino a Luxor che rappresentavano lui e sua moglie. E secondo la studiosa Brian, questa scoperta ora dà un grande impulso proprio all'archeologia e soprattutto alimenta la storia dell'Egitto, che è una storia fondamentale e alla quale aggiungiamo ogni volta un pezzettino in più. Si spera infatti di scoprire anche delle tombe, perché nelle tombe si trovano spesso dei tesori appartenenti ai faraoni stessi. E, vi dicevo, questa scoperta arriva dopo vari tentativi. Il primo fu fatto nel 1888 e poi fu ripreso nel 1912. Anche il Metropolitan Museum di New York mandò una missione per cercare l'oro, per cercare questa città fantomatica. Ma abbiamo dovuto aspettare i giorni nostri praticamente per farla venire alla luce. Anto, ora tocca a te, devi lanciare un brano musicale. Eh sì, allora rimaniamo in zona ovviamente e io vi farei ascoltare Yahenna, che comincia con queste parole: Fiore di henna, perché ci hai lasciato? Thank you. Ben ritrovati, adesso passiamo la parola a Fabio e Lorenzo che hanno intervistato Susanna Zaccaria, che è assessora del Comune di Bologna per l'educazione, scuola, pari opportunità e differenze di genere. Il tema era perché la nostra società si deve interessare di carcere e sentiamo che cosa ci ha risposto. Allora, buonasera Assessore Zaccaria, benvenuta a questa intervista per Liberi Dentro Giù Radio. E partiamo subito con le domande. Allora, la prima domanda che io le faccio è perché è imprescindibile secondo lei che la politica si impegni in favore delle persone detenute o ex detenute che siano? Intanto grazie per l'invito per questa intervista, mi fa veramente molto piacere perché il tema della detenzione è un tema molto importante. E la politica se ne deve occupare perché, come noi diciamo sempre, il carcere è un luogo della città, intanto, quindi è un quartiere della città con le sue particolarità, però è un luogo di cui tutte e tutti ci dobbiamo occupare come cittadini e come istituzioni, e poi avremo una Costituzione che dice anche delle cose su come dovrebbe avvenire la detenzione, sul significato della pena, sulla funzione rieducativa della pena, che noi non possiamo far finta di non sapere. E certo, è un tema che scatena moltissimi sentimenti, sensazioni, molti ambiti, perché sappiamo che le persone ovviamente detenute sono lì perché hanno commesso dei reati e questo smuove tantissime sensazioni ambivalenti, ma questo non toglie che noi ce ne dobbiamo occupare e ce ne dobbiamo occupare al meglio perché io credo molto in quello che si dice, che comunque lo stato di civiltà di un paese si vede anche da come tratta i propri detenuti. Io nella mia vita privata sono avvocato, quindi come dire, sono tutti i valori con cui sono cresciuta che riguardano la mia formazione di giurista, quindi ci credo molto in questa, insomma, sono proprio convinta, ecco, non è un dovere istituzionale solo. Bene, e quindi a proposito di questo io le chiedo nella pratica, le azioni pratiche, come possiamo mettere assieme il mondo dentro e fuori dal carcere, quindi rendere il carcere parte integrante della città di Bologna in questo caso? Abbiamo riflettuto molto in questi anni di mandato, anche all'interno del Comitato Locale Esecuzione Penale Adulti, il CLEPA, che appunto riunisce i diversi soggetti che si occupano della detenzione, la parte sanitaria e il volontariato. E ci abbiamo pensato molto proprio perché io personalmente sento anche molto forte qualcosa che riguarda un po' tutta la società, discorsi d'odio, la crisi, quando si inasprisce questo, i diritti sono le prime questioni che vanno in secondo piano, compresi i diritti delle persone detenute. Quindi creare questo collegamento dentro e fuori dal carcere è stato uno dei punti che ci siamo posti. In realtà, confesso che avevamo anche ragionato su un progetto molto bello con Cultura, quindi con l'area Cultura, mettendo insieme tutte le associazioni che nel nostro carcere svolgono volontariato, perché volevamo proprio collegare, come dire, un po' i cittadini con quello che succede dentro e poi dare riscontro dentro del fatto che la città se ne stava occupando. Poi era un progetto dello scorso anno. E Chiaro, purtroppo è rimasto lì. l'emergenza. E quindi, come dire, io quando poi io ho fatto la conferenza stampa per l'Urabio Liberi Dentro, ho detto, e lo ribadisco, ne sono convinta, che questo è diventato quello che noi avremmo voluto fare con altre azioni, ma diciamo quel filo di collegamento tra dentro e fuori, che da un lato, ripeto, serve ai detenuti per far vedere che la città se ne occupa e che fanno parte della città, ma serve molto anche fuori, per togliere quella parte di astio, anche di linguaggio molto duro che si sente, la famosa frase buttarmi alla chiave, dico la più banale, però insomma, che nei momenti di difficoltà ti costringe un po' proprio a non vedere più nessuno, nessuno più dei diritti che sono i tuoi, che da un certo punto di vista è una sensazione umana. Una Certo, reazione umana, sì, però noi è da comprendere. è da comprendere, ma noi non possiamo come istituzione, non possiamo assolutamente fermarci a quello. Please, love is taking over. Io guarda, per chiudere questo cappello, sul binomio carcere-città, le faccio una duplice domanda. La prima, per chiudere un po', è: secondo lei, a livello globale, qual è la visione che può davvero considerare cittadini, la visione di città, che può considerare cittadini coloro che provengono dal carcere? E la seconda domanda che le faccio qua dentro, che l'abbiamo approfondita anche con Massimo Ziccone, con altri, attori dell'area carcere, lei cosa direbbe proprio concretamente se avesse di fronte un cittadino scettico di quelli che dicono buttiamo via la chiave, per convincerlo del fatto che non è solo una questione etica il discorso dell'inserimento, ma proprio un vantaggio pratico per tutti non avere persone escluse al di fuori? Allora, la visione secondo me passa necessariamente non solo da progetti di reinserimento, educazione, ma anche di adeguatezza dei luoghi, numero di personale, cioè personale adeguato. Quindi se parliamo di visione generale sulle carceri ci vorrebbe un intervento massiccio che purtroppo io non vedo molto in agenda, devo essere sincera, a livello nazionale non la vedo questa cosa qua. Mentre invece per quello che riguarda i cittadini, secondo me bisogna molto insistere su una questione che sembra banale, ma invece banale non è, perché se noi usciamo un attimo dalla logica della punizione, parlo di cittadini, non dei familiari delle persone colpite, se sono arrivate, cioè quindi di quello che tutti dobbiamo fare come cittadini e cittadine. Se le persone vengono rieducate, rientrano nella nostra società e meglio stanno loro e meglio stiamo tutti, perché altrimenti diventa quel circolo vizioso per cui quando le persone vanno in carcere sono detenute in condizioni che non vanno bene, non si pensa alla loro rieducazione, non gli si dà nessuna prospettiva, chiunque di noi in quella situazione esce e probabilmente fa peggio di prima. Sì. E allora è un po', faccio un paragone che sembra azzardato, quando parliamo della questione femminile, che è un altro dei miei temi, sì. È inutile che continuiamo a lasciare indietro metà della società se vogliamo progredire, cioè, e ripeto, sembrano cose di una banalità estrema, ma sono soverchiate continuamente invece da quello che purtroppo è il sentire comune. Hai sbagliato, devi essere punito, manco ti voglio più vedere, che è una visione assolutamente irrealistica, perché certo, sono pochissime le persone con fine pena mai rispetto, a tutti coloro che entrano ed escono, e se non gli diamo... Sì, per reati minori che... Sappiamo i numeri, conosciamo bene un po' cos'è la popolazione carceraria. Quindi un conto è la lotta ai fenomeni criminali fuori, organizzazioni, droga, sappiamo, certo. Ma un conto è anche pensare a queste persone e che alternativa possono avere, perché se non gli si dà l'alternativa si può pensare che uno da solo rivoluzioni uno, qualcuno, cioè facciamo il possibile, ma stiamo parlando insomma di visione generale, e questo secondo me va detto ai cittadini, perché poi quando si riflette un po' sui temi, in una città come la nostra, fortunatamente abbiamo spazio per questi temi. Sì, a Bologna sicuramente c'è una sensibilità notevole su queste tematiche qua. Let's shift away from this world of madness. Take a little time to enjoy the silence. Feel the wind as it touches your lips. Feel the sun as you close your eyelids. Think of a place where there's only brightness. Take me by the hand and we'll try to find it. Time stands still as we lie in daydream. It feels so real, can you see what I see? Il nostro intervento termina qui. Ci rivediamo presto con nuovi approfondimenti da chi vive per chi vive il carcere. Non dimenticatevi di scrivere a Liberi Dentro e Duradio sui social, Instagram e Facebook, se avete domande o richieste per le prossime puntate. Ciao a tutti! Rieccoci dopo le parole di Susanna Zaccaria, ci salutiamo e ci ridiamo appuntamento sempre a domani su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. E la rubrica di oggi parliamo di, è a cura di AVOC, quindi la sentirete, l'ascolterete tra poco su Lepida e alle ore 17 invece su Teletricolore. Vi ricordo di iscriverci, redazione liberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata via San Mammolo 240 136 Bologna. Ringrazio il nostro tecnico Pasquale Pitaniello e noi ci rivediamo domani, sempre qui, a Liberi Dentro. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.